Benvenuti a Soccorso Rock and Roll, una specie di viaggio rocambolesco nell'evoluzione della scena hard rock e heavy metal di Los Angeles, ossia quel microcosmo che negli anni 80 andrà a dare i natali non solo a gruppi di enorme successo come Van Halen, Motley Crue e Guns N' Roses, ma anche ad una miriade di meteore più o meno talentuose. Se vi è piaciuta la sigla, vi consiglio di ascoltare tutta la puntata, perché alla fine rivelerò anche quali brani ho usato per creare il mashup. Chiariamo subito che cercare di trovare la canzone zero dell'heavy metal è un'impresa fallimentare, visto che si tratta di un genere musicale in esplicita continuità con il blues ed il rock and roll. Non è possibile tracciare una linea netta di separazione stile avanti e dopo Cristo. Gli stessi Judas Priest, spesso indicati come padri putativi del genere, con un'intervista rilasciata alla rivista inglese Classic Rock qualche anno fa, hanno dichiarato di essere partiti come band di blues bianco, sulla falsariga dei vari Peter Greenfleetwood Mac, Savoy Brown, Chicken Shack, Fogat, eccetera, salvo ritrovarsi inconsciamente a suonare progressive blues prima e heavy metal dopo. Per evitare fraintendimenti, preciso che ai fini di questa trasmissione userò indistintamente le diciture hard rock, heavy rock e heavy metal. Immaginiamo di trovarci a Los Angeles nella seconda metà degli anni 60. Cerchiamo di fare una specie di topografia del proto heavy metal. Partiamo quindi dal Sunset Strip, un lembo del lunghissimo Sunset Boulevard di West Hollywood, costellato da locali. Le band aborigene di punta all'ormai celeberrimo Whiskey a Go-Go erano due, Doors e gli Iron Butterfly. Sui Doors si è detto tantissimo e non è questa la sede per un ripasso approfondito. Gli Iron Butterfly hanno sì avuto successo, ma non godono dello stesso status mitologico dei Doors e direi che magari in Italia non proprio tutti li conoscono. Eppure, in Agada da Vida, il loro secondo album uscito nel 68, è stato il primo disco ad essere certificato platino negli Stati Uniti. Andiamo adesso ad ascoltare un estratto dei Doors. Sentiamo perché penso che siano strumentali nello sviluppo della storia del heavy metal. E questa era 5 to 1 dei Doors del 1968. Direi che non è propriamente un pezzo leggerino, magari chiamarlo heavy metal è quasi un'eresia, ma sinceramente io penso che sia in quella traiettoria lì. Tant'è vero che i Kiss, che invece tutti considerano tra i padri insomma dell'hard rock e dell'heavy metal, hanno una canzone che si chiama She, che hanno registrato nel loro debutto del 74, ma che avevano già registrato sotto altro nome quando si chiamavano Wicked Lester. Ecco, questa canzone, She, ha l'assolo che praticamente è identico a quello dei Doors, insomma, i Kiss si sono ispirati al limite del plagio. Sentiamo un attimo. Bene, ora proviamo invece a dare un ascolto agli Iron Butterfly e vediamo di capire perché, secondo me, vanno sicuramente considerati, insomma, tra quei momenti importanti della storia musicale a Los Angeles che hanno poi portato all'heavy metal. Yeah. you know that I'm loving you. Ecco, la versione in studio di questo pezzo durava 17 minuti, quindi occupava un intero lato del vecchio vinile. La versione dal vivo, che di solito veniva estesa, purtroppo dura solo 18 minuti, quindi un minuto extra, niente più. E infatti c'è anche un episodio dei Simpson in cui viene parodizzata questa canzone, perché Bart sostituisce lo spartito della signora che suona l'organo in chiesa e gli mette quello di questo pezzo, e si vede la signora stremata con la scritta sotto 17 minuti dopo. Al tempo i DJ delle radio FM, che potevano permettersi di mandare in onda canzoni non singoli, diciamo così, erano super felici di avere brani come questo, perché li chiamavano le canzoni da toilette, diciamo così, perché gli dava il tempo di andare in bagno, fumarsi una sigaretta, fare quello che volevano, perché tanto per 17 minuti nessuno doveva occuparsi di che cosa stava succedendo in trasmissione. Torniamo a noi, al nostro tema dell'heavy metal. Direi che è chiaro che questi due gruppi, Doors e Iron Butterfly, erano già positivi al germe del metallo, un bacillo scoperto dall'esimio dottor Andrea Costa e che diventerà epidemico nelle decadi successive, quindi negli anni 70 e negli anni 80. Oltre al whisky a gogo, i Doors suonavano spesso in un'altra bettola del Sunset Strip chiamata Gazzarri's. Bill Gazzarri era un italo-americano che si vocifera avesse legami, insomma, con la malavita, con la mafia, non è difficile pensarlo. Ci ha lasciati nel 1991, ma è una figura che è stata emblematica anche poi negli anni 80 e anche negli anni 70, perché i Van Halen suonavano spesso nel locale. Questo posto è stato demolito svariati anni fa, ma al suo posto sorge un altro club che, a quanto dice Richard Black, che sarebbe il cantante degli Shark Island, una band anni 80, è praticamente identico, cioè il Key Club l'hanno tirato su rifacendo il Gazzarri's da capo e cambiandogli nome. Non si capisce bene cosa succede qua negli Stati Uniti, dove peraltro mi trovo in questo momento, ma posso dire che continuano a buttare giù, ricostruire, per certi versi positivo, per altri magari un po' meno. Ma che cos'altro succedeva, diciamo, di heavy metal a cavallo tra gli anni 60 e 70 a LA? Beh, io vorrei citare altri luoghi. Il primo è il Capitol Records Building, che sarebbe la sede dell'etichetta discografica Capitol. Nei tardi anni 60 i durissimi Grand Funk Railroad, che molti si ricordano essere la band preferita di Homer Simpson, erano sotto contratto proprio con la Capitol. Anche se loro erano una band che veniva da Flint, nel Michigan, che sarebbe una variante ancora più squallida di Detroit, il loro nome si vedeva spessissimo sulle strade di Hollywood, perché le etichette all'epoca compravano degli spazi pubblicitari chiamati billboard e mettevano lì le pubblicità dei nuovi album, e i Grand Funk c'erano praticamente sempre. Diamogli un attimo un ascolto. Questa era Heartbreaker, che sarebbe una specie di ballad presente nel primo album dei Grand Funk del 69. Ovviamente non si può capire che è una ballad, perché questa è la coda finale in cui parte il delirio, il batterista pesta come un dannato, Don Brewer, e il cantante chitarrista Mark Farner ci dà dentro con un assolo abbastanza delirante e così via. Magari all'ascoltatore moderno può lasciare un po' indifferente, perché c'è questa coralità che rende il tutto un pochino più morbido, però se uno si sofferma su quello che sta succedendo dietro a questi cori, direi che si può anche sprecare l'aggettivo infernale. Ora, è chiaro che i Grand Funk Railroad non sono stati il primo, come dicevo prima, gruppo a creare l'heavy metal o il più pesante o chissà che cosa, però sicuramente sono stati tra i primi ad avere un grandissimo successo, non solo per un disco, solo per un pezzo, ma su una serie, insomma, di album. Tant'è vero che arriveranno al primo posto delle classifiche americane con We Are an American Band nel 1973, e adesso non mi ricordo più che numero di disco sia, ma sarà tipo il quinto o il sesto. Peraltro è bellissimo da avere in vinile, perché è tutto dorato, e sono molto contento di averlo trovato qua negli States, a Philadelphia. diciamo, per dovere di cronaca vanno citati quantomeno i Blue Cheer, che erano di San Francisco, della Bay Area, che già nel 67-68 facevano moltissimo rumore. Vanno citati, vabbè, i Cream inglesi, che erano stati in tournée in America, avevano suonato al Filmorista a San Francisco. Vanno citati gli MC5 di Detroit, anche lì una distorsione veramente notevole. Ma le band veramente si sprecano, sarebbero tantissime, e vorrei davvero concentrarmi su quelle che sono un pochino più attinenti con la città di Los Angeles, per un motivo o per l'altro. Adesso passerei ad un altro luogo mitico, mitologico di Los Angeles, l'Andaz West Hollywood Hyatt Hotel. So, il nome Andaz sembra una parola bolognese tipo Regaz, però sarebbe in realtà la famosa Riot House, cioè l'albergo dove stavano i Led Zeppelin inglesi e i Vanilla Fudge di New York quando si erano trovati a suonare a LA, sempre a cavallo tra i 60 e i 70. Per chi di voi ha letto magari la biografia non ufficiale dei Led Zeppelin, sa già che si chiama peraltro Hammer of the Gods, martello degli dèi, da una frase della canzone Immigrant Song. Ecco, chi l'ha già letta sa che in quel posto lì, l'hotel Hyatt di Hollywood, ne hanno combinate di cotte e di crude. Forse gli aneddoti un po' più grafici sono quello in cui Carmine Appice, che sarebbe il batterista dei Vanilla Fudge, percuoteva una groupie davanti all'allegra combriccola di Led Zeppelin e Vanilla Fudge con uno squalo morto. Pure un'altra molto caratteristica è quella della famosa orgia nella vasca da bagno, che era stata riempita con i baked beans, che sarebbero quei fagioli con la salsa di pomodoro che si vedono nella zuppa Campbell dei quadri di Warhol, per intenderci. Ecco. Come per i Doors, tutti sanno tutto dei Led Zeppelin, quindi inutile soffermarci più di tanto, però vorrei che ci ricordassimo un secondo del motivo per cui sono così importanti per l'evoluzione delle heavy metal. Sentiamo un pezzo veramente caratteristico. Stoppata proprio su Robert Plant, che dice it's always the same, un po' perché volevo segnalare che alla fine della fiera l'heavy metal si assomiglia, però con i Led Zeppelin si definisce fondamentalmente l'archetipo, perché c'è il cantante che va su con gli acuti, c'è il riff ultra distorto, c'è la velocità, c'è questa plettrata che probabilmente non è alternata, sono solo downstroke, vuol dire che colpisce le corde solamente plettrando all'ingiù, Jimmy Page il chitarrista. E per accentuare ulteriormente questa abrasione vi ho messo la versione live alla BBC, anziché la versione da studio, che è un pochino più tranquilla, si fa per dire. Cioè, la distorsione che sentite qua veramente tracotante, non ci sta, non riescono a registrarla, tant'è vero che sfocia in un feedback ai limiti del fastidioso, però se uno è un fan di un certo tipo di sonorità capisce che c'è dell'arte anche in quel rumore lì. Peraltro Communication Breakdown, questa canzone, è un brano che è stato fondamentale sia per lo sviluppo dell'heavy metal, infatti i Black Sabbath hanno scritto Paranoid cercando di copiarla per ammissione di Tony Iommi, il chitarrista, ma sia anche per lo sviluppo del punk, perché Johnny Ramone, il defunto chitarrista repubblicano dei Ramones, ha raccontato che ha ascoltato come un ossesso questo brano e ha cercato di replicare quella plettrata lì di Jimmy Page all'infinito. Tant'è vero che la maggior parte delle canzoni dei Ramones si basano proprio su quello, cioè su una plettrata ritmica molto veloce, monocorde letteralmente, e poi vabbè, ci canterà sopra Joey Ramone le sue melodie un pochino più pop, un po' più collegate magari al rock and roll degli anni 50, però è clamoroso come Communication Breakdown abbia creato questo bivio, sia essa stessa il bivio: se vai da un lato vai nel punk, se vai dall'altro vai su per la strada dell'heavy metal rock. Poi non sono due strade perfettamente parallele, ogni tanto si intrecciano, e a me personalmente piacciono moltissimo entrambe. Dicevamo, in questo albergo, l'Hyatt Hotel, non c'erano solo i Led Zeppelin, c'erano anche i Vanilla Fudge, perché suonavano insieme, condividevano il palco, prima gli uni poi gli altri. All'inizio erano più famosi i Vanilla Fudge, poi ovviamente sono diventati molto più famosi i Led Zeppelin. Quindi io direi di ascoltare almeno un estratto dei Vanilla Fudge, una band di New York uscita un po' prima, il debutto del 67, se ricordo bene. Debutto che è interamente costituito da covers suonate con una particolarità, cioè loro prendevano pezzi famosi tipo Ticket to Ride dei Beatles, People Get Ready, che è un pezzo soul, e soprattutto You Kim Young Inon, che ascolteremo, un pezzo delle Supremes, li rallentavano in modo estenuante, quasi fastidioso, davano una cadenza marziale grazie al batterista Carmine Apice, che pestava come un dannato, ispirandosi a un'altra band di New York, di cosiddetto Blue Eyed Soul, che è il soul fatto dai bianchi, i Young Rascals. Ecco, cadenza marziale nella batteria e organo onnipresente e estremamente distorto. La chitarra c'è ma è sepolta. All'inizio, l'heavy metal molto spesso, per dare pesantezza ai brani, usava le tastiere più che la chitarra, tastiere che però venivano filtrate attraverso amplificatori Marshall mandati in overdrive, cioè non c'erano distorsori, semplicemente si alzava i volumi a un livello tale che il risultato era un suono naturalmente distorto. Quindi per suonare heavy metal dovevi per forza suonare ad alto volume, perché se te provavi a suonare heavy metal con i volumi bassi non usciva la distorsione, cosa che poi è cambiata con la tecnologia, con i preamp e tante altre amenità che abbiamo a disposizione adesso. Ascoltato con attenzione, avete potuto apprezzare sia il rullante di Carmine Apice, che è esplosivo, sembra che ci abbia la dinamite in quel rullante lì, non so come l'abbiano registrato, forse in una stanza ampia con un po' di eco, magari hanno messo dei microfoni ambientali un po' lontani, ma hanno fatto delle magie da studio, insomma, che all'epoca si era molto sperimentali. Ma oltre al rullante, la cosa impressionante è la gran cassa. Probabilmente sono due gran casse, sicuramente sono due pedali, cioè con i piedi Carmine Apice scandisce il tempo, che è una cosa che diventerà caratteristica nel heavy metal, su ogni quarto. Non lo fa su tutta la canzone, ma se avete modo di riascoltare questo brano, che dura circa 7 minuti su album, con attenzione e soffermandovi sulle frequenze basse, potrete sentire questo gran lavoro di piedi di Carmine Apice, che sarà estremamente influente. Non avrei voluto essere quella povera ragazza che veniva menata con lo squalo, perché questo era veramente, ed è tuttora ancora in attività, un fabbro, marchio di famiglia, perché il fratello Vincenzo, verosimilmente, sarà anche lui un grande batterista heavy metal, con i Black Sabbath, con Dio, con gli Axis, con Rick Derringer, con molte band, tutte di spessore. Lo stesso Carmine proseguirà la sua carriera dopo i Vanilla Fudge, prima con i Cactus, poi con Jeff Beck, anche con Rod Stewart, e negli anni 80 con Ozzy Osbourne e con i King Cobra, la sua creatura. Allora, abbiamo toccato una fase abbastanza, come dire, glamour, no? Di star, abbiamo toccato i Led Zeppelin, che erano giovani ma erano già degli affermati musicisti. Passerei a una zona molto meno carina, anzi una zona tragica. Mi sposterei sulle colline, alle spalle delle colline di Hollywood, e andrei a questo punto nella nostra topografia della Los Angeles dei tardi 60 al ranch dove si era piazzato Charles Manson. Praticamente lui era riuscito a prendere possesso di un terreno e insediare lì la sua, diciamo, setta di scappati di casa, la famosa family di Charles Manson, e da quel ranch, il Baker Ranch, esercitava influenza su alcuni personaggi del jet set, possiamo dire, tra cui Brian Wilson, quello dei Beach Boys. Perché cito questo postaccio? Beh, perché comunque Charles Manson ha dichiarato, adesso è morto da un paio di anni, che lui è stato ispirato a fare a essere il mandante della strage della famiglia Polanski, dopo aver ascoltato tantissime volte il disco bianco dei Beatles e in particolare la canzone Helter Skelter. Questa canzone è stata scritta da Paul McCartney. Voi sapete che canzoni dei Beatles di Paul e John Lennon sono sempre accreditate a tutte e due, però ex post si riesce sempre a capire chi ha scritto che cosa. Ecco, Helter Skelter l'ha scritta Paul, insospettabilmente, perché Paul passa per quello più melodico, e l'ha scritta con l'obiettivo esplicito di fare una canzone che facesse più casino di quelle degli Who. E ci è riuscito. E questa canzone Helter Skelter ha un testo un po' delirante, si dice apocalittico. Io sinceramente l'ho ascoltata tantissime volte e ancora non mi è venuto da fare una strage di attori hollywoodiani, quindi non so, probabilmente mi manca qualcosa, o più verosimilmente Charles Manson era un pazzo criminale. E comunque questa canzone poi è entrata nel mito anche per questo alone tragico, sanguinario che le è associata, e molte band di Los Angeles l'hanno citata o addirittura ne hanno fatto la cover. Per esempio i Motley Crue l'hanno incisa nel loro secondo album, Shout at the Devil, nel 1983, e i Wasp hanno registrato una cover di una canzone dei Mountain che si chiama Mississippi Queen, e in questa canzone a un certo punto, diciamo a caso, Blackie Lawless, il cantante, si mette a urlare Helter Skelter, e sia Nikki Sixx, il bassista dei Motley Crue, che Blackie Lawless, il bassista barra cantante barra chitarrista dei Wasp, in quegli anni stavano sperimentando con la magia nera, le arti occulte, una serie di, diciamo, cavolate, e sicuramente il personaggio di Charles Manson era una presenza che in qualche modo aleggiava ancora su molti musicisti un po' disperati, un po' tossici, che orbitavano a Los Angeles. È brutto da dire, ma è la realtà. Un caso forse un po' artefatto è quello di Axl Rose, il cantante dei Guns N' Roses, che poi nell'album di cover The Spaghetti Incident, che è stato inciso quando i Guns erano già strafamosi e probabilmente esauriti, ecco, in questo album ha inserito una ghost track alla fine della scaletta esplicita, diciamo, se uno aspetta, parte una leggera ballata, e questa ballata è stata scritta proprio da Charles Manson. Axl Rose alcune volte metteva delle magliette con la faccia di Charles Manson. Ora lì non si capisce se era solo trasgressione fine a se stessa, voglia di scioccare, o idiozia totale di Axl Rose. Sono entrambe ipotesi plausibili, sinceramente. Comunque andava citato, e adesso è molto rilevante perché è l'ultimo film di Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, che è ambientato proprio nel 69, descrive una realtà alternativa ispirata dai fatti del massacro della famiglia di Roman Polanski, quando gli adepti di Charles Manson hanno ucciso Sharon Tate, la domestica, l'amico barra amante, una serie di cose. Perdonate questo lunghissimo excursus, ora ascoltiamoci un frammento di Helter Skelter dei Beatles, 1968. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. Do you, don't you want me to love you? Rapido sondaggio, quanti di voi si sono fiondati a fare un massacro? Spero nessuno. Comunque avete sentito che si tratta davvero di un pezzo sopra le righe, di un pezzo rivoluzionario, e i Beatles erano fantastici, che si trattasse di tenere la mano della propria amata o che si trattasse di scrivere canzoni sull'apocalisse. Passiamo adesso all'ultimo luogo che vorrei citare. Si tratta di uno studio discografico. Si chiama Sunset Sound Recorders Studio a Hollywood, ovviamente, perché Sunset fa capire più o meno dove si trova, no? Allora, qui hanno registrato un po' tutti. I Doors hanno fatto i primi due album, i Led Zeppelin hanno registrato qualcosa, ma il motivo per cui lo voglio citare, e qua facciamo anche un salto in avanti, è perché nel 1973 qui è stato registrato l'album di debutto dei Montrose, Allora, i Montrose è chiaro che sono un gruppo decisamente più di nicchia rispetto agli altri che abbiamo citato in questa puntata, quindi anziché fare una lunga premessa adesso vorrei farvi ascoltare subito qualche estratto di questo album. Avete sentito le ultime parole pronunciate dal cantante Sammy Hagar? Next time around, la prossima volta. Ed è infatti andata così, cioè questo disco ha venduto troppo poco, così come i successivi album dei Montrose. Ma la volta successiva, quando Sammy Hagar intraprenderà la sua carriera solista, avrà il primo assaggio del successo e soprattutto quando si unirà ai Van Halen a metà anni 80 sostituendo David Lee Roth, creando quelli che molti chiamano i Van Hagar, otterrà il successo davvero planetario con una stringa di album tutti arrivati al primo posto delle classifiche americane. Ma torniamo al 1973, questi benedetti Montrose, avete sentito che distorsione, che arrangiamento, che voce, tutto fantastico, un pezzo Space Station No. 5 che è stato saccheggiato da tutti, i Kiss hanno preso il riff e l'hanno trasformato in Making Love, gli Iron Maiden si sono ispirati e quello stesso strillo che sentite all'inizio l'hanno replicato nella loro canzone The Number of the Beast. Ma poi i Maiden sono stati molto più onesti, diciamo così, perché almeno hanno registrato anche la cover di questo pezzo come B-side in uno dei loro singoli, quindi di fatto restituendo il favore e facendo la stessa cosa con un altro pezzo ancora dei Montrose, quindi diciamo ripagandoli in royalties, perché chiaramente gli album dei Maiden e i singoli dei Maiden hanno venduto molto più degli album dei Montrose. Sentiamo adesso un altro estratto sempre da questo album, prima di chiudere riepilogando un pochino perché è così importante per la storia del heavy metal rock di Los Angeles in particolare. Direi che un ascoltatore esperto è subito in grado di tracciare le influenze di questo brano. Praticamente è un frullato dei Free di Paul Rogers, quelli di All Right Now per intenderci, e dei Led Zeppelin un po' più quadrati, quelli di pezzi come When the Levee Breaks, che anch'esso inizia con un intro di batteria, diciamo, in solitaria, con molta eco sul rullante, questa cassa che anche lì sta per esplodere. Però cosa c'è di rivoluzionario in questo disco? Beh, il fatto che dall'inizio alla fine tutte le 8 tracce dell'album sono così, cioè sono dure, magari più veloci, magari un pochino più quadrate e marziali, ma sempre comunque distorte e dure. Una scelta di campo che non si trovava molto spesso, perché nei primi anni 70, agli albori, diciamo, di questo stile, di questo genere, persino i Black Sabbath non osavano fare un disco pesante dall'inizio alla fine, perché si riteneva che il chiaro scuro rendesse le parti scure distorte ancora più violente e pesanti. Per certi versi è vero, è una bellezza, ma per altri versi è assolutamente legittimo e rispettabile quello che hanno voluto fare i Montrose con questo disco. Altra cosa assolutamente chiave dell'album è il suo suono, e qui è fondamentale il ruolo dello studio e di alcune figure che nella registrazione di un disco sono imprescindibili. Parlo del produttore Ted Templeman e dell'ingegnere del suono Don Landy. Ted Templeman, chiamiamolo TT per fare prima, era un po' l'ingegnere di casa della Warner, che era l'etichetta discografica che aveva messo sotto contratto i Montrose, mentre Don Landy era un po' il suo secondo. Allora, questo stesso team lo ritroveremo nel primo album dei Van Halen, quindi sono loro i geni che sono riusciti a convogliare quel tipo di sonorità, quel tipo di distorsione, e registrarla su disco con qualità cristallina senza perdere un'oncia di potenza. Perciò, ragazzi, ringraziamo TT di questa sua volontà illo tempore di produrre i Montrose, che erano abbastanza distanti da quello che lui faceva di solito alla Warner, perché alla Warner lui ha registrato per esempio i Doobie Brothers, i Little Feat, delle band che a tratti sì, magari roccheggiavano un pelo di più, ma di base erano abbastanza West Coast moderato. Ringraziamolo perché ha voluto mettersi in gioco, cercare di catturare questa musica non facile da registrare, e ci è riuscito alla grandissima. Una parola anche per Ronnie Montrose, il chitarrista che ha dato il nome alla band. Di fatto anche qui una tradizione che si ripeterà con i Van Halen, in cui è Eddie Van Halen il chitarrista a dare il nome alla band, anche se nei Van Halen c'è anche il fratello Alex alla batteria. Ronnie Montrose era un sideman, diciamo così, no? Una specie di mercenario che suonava con musicisti affermati, ad esempio aveva suonato con Edgar Winter, aveva suonato con Van Morrison, era finalmente riuscito a convincere un'etichetta a fargli registrare il suo progetto, a esprimere quella che sentiva come musica sua, perché attenzione, le band con cui suonava non erano assolutamente band di hard rock, heavy metal e cose simili. C'era riuscito e anziché perdersi in fiumi di assoli ha avuto questa visione di una musica più compatta, con sì spazio anche al virtuosismo, ma in poche battute. Purtroppo negli ultimi anni Ronnie Montrose era caduto in depressione in seguito alla malattia, perché aveva contratto un cancro alla prostata, se non erro, e si è sparato qualche anno fa, e quindi riposa in pace Ronnie Montrose, e lo ricordiamo per il suo grande contributo alla musica, che non si ferma col debutto dei Montrose, andrà avanti, ma questa è un'altra storia. Dai, direi che per quanto riguarda le origini in senso strettamente musicale abbiamo toccato la maggior parte dei tasselli fondamentali. Ovviamente ci sarebbero decine, se non centinaia, di altri gruppi e aneddoti che sono stati strumentali, però direi che come inquadramento generale ci siamo. Quello che non abbiamo toccato, quello che manca, è l'aspetto scenico, chiamiamolo glamour. Con la prossima puntata parleremo di Alice Cooper, New York Dolls, Kiss, Angel e tanto altro. Prima di salutarvi, come promesso, vi rivelo le canzoni della sigla. Allora, i colpi di batteria sono quelli di Eruption, di Van Halen, il suo famoso assolo. Il coro è quello di In My Dreams, dei Dokken. Il primo riff è Rapid Fire, dei Judas Priest. Il secondo è Wild Child, dei Wasp. La voce dell'intro, ovviamente, è quella di Number of the Beast, degli Iron Maiden. Se volete sapere, invece, da dove vengono gli altri rumori che sentite sparsi qua e là sulla traccia e anche quelli parlati conclusivi, dovrete aspettare la prossima puntata.